Dice Holloway, si nasconde un mistero, che è lo stesso mistero della citazione incondizionata della vita, perché nella storia. Tranquilla, Sì. tranquilla, ascoltiamo. Dunque, ecco, sì, stavo parlando di questo concetto del perdono in particolare e di questo mistero, un mistero dell'accettazione incondizionata della vita. Il perdono è un fatto singolo, un motto personalissimo del proprio animo, ha detto mio padre in questa sua commemorazione del 95 a Cavalese. Io credo che mio padre abbia imparato il senso profondo e l'essenza profonda del perdono cristiano che investe la totalità del cuore e dell'anima da padre Costantino Amort, che egli ha definito un martire e che senz'altro è stato il suo maestro spirituale. Ai valori cristiani che mio padre indelebilmente scolpì all'interno di se stesso dopo questa esperienza, egli rimase coerente per tutta la vita, compreso anche il periodo della sua malattia terminale che sopportò, e cito parole proprio della conclusione del suo libro, che secondo me calzano a pennello anche per questo suo modo di aver condotto la sua malattia con la calma forza della rassegnazione. Infatti, a testimonianza di ciò, vi cito ancora poche parole tratte da una lettera che mio padre scrisse da Cavalese nell'agosto del 95. Ora sto abbastanza bene, nello stato generale e nello spirito, pur essendo molto dimagrito. Sono quasi alle misure di 50 anni or sono e quindi sono sensibilmente debilitato. Ma confido molto che il Signore, dopo esatti 50 anni, tanti sono proprio in questi giorni, essendo io tornato a Cavalese a fine luglio 45, voglia ancora una volta salvarmi. Ma sia fatta la sua volontà. Dopo 3 mesi, il 10 novembre del 95, mio padre moriva a Bolzano. E aveva considerato questi 50 anni di vita dopo la salvezza del lager, come un giorno mi disse prima di lasciarci, come un regalo di Dio. Bene, innanzitutto voglio portarvi il saluto e il ringraziamento del presidente del Museo Storico, che è anche il sindaco della città di Trento, Alberto Packer, mi ha ricordato con particolare emozione il 27 gennaio di quest'anno, quando Gabriella, la moglie di Aldo, è venuta a Trento in occasione appunto della giornata della memoria. E ha consegnato, tra l'altro per volere di Aldo, la casacca di Mauthausen al nostro museo. E segnando con questo gesto che noi abbiamo apprezzato, cioè realmente tra Trento e Bolzano, tra le due realtà cittadine, tra le due realtà provinciali, e devo dire che l'occasione di questa sera, di questo incontro, organizzato appunto alla Biblioteca Claudio Augusta, conferma, diciamo, questa necessità di lavorare unendo le due comunità provinciali, provando proprio anche i percorsi di vita come quelli di Aldo Pantozzi a ragionare su una storia che comunque è una storia comune, una storia che vede appunto intrecciati ambiti territoriali diversi. Del resto il viaggio stesso di Aldo Pantozzi, che inizia con l'uscita dal carcere di Trento, dove però era stato 40 giorni e dove purtroppo di quell'esperienza, purtroppo devo dire per noi che cerchiamo conferme, cerchiamo testimonianze, non c'è traccia, perché il suo racconto è un racconto che si riferisce solo di fatto all'universo concentrazionario, quanto avesse bisogno proprio sul viaggio, su queste stazioni, diciamo, del dolore che sono poi Bolzano, che sono Mauthausen, e i vari blocchi dove trova, tra virgolette, ospitalità. Beh, la partenza, quei riferimenti anche a Cavalese, ai compagni che non ci sono più, ai appunto a Padre Costantino Amort e agli altri compagni di prigionia, per noi appunto che ci occupiamo anche della storia della comunità trentina e di quella vicenda di Cavalese, avremmo voluto, diciamo, che Aldo nel gennaio del 46, dando alle stampe, diciamo, questo suo scritto, parlasse di più, però già oggi guardare, diciamo, al senso di quella iniziativa editoriale così controcorrente, perché vi ricordo un dato forse che oggi non abbiamo sottolineato abbastanza, quanto per chi avesse partecipato, diciamo, fosse stato internato nei campi di concentramento, fosse difficile psicologicamente scrivere a 8 mesi dalla liberazione. Non stiamo parlando di 20, 30, 40 anni, parliamo di 8 mesi della liberazione, in un clima che era un clima tutto particolare. Allora, quando Luigi Pirelli, che è colui che ha voluto la prima edizione, questa Collana dei Redivivi, Collana dei Redivivi, non è un titolo che abbiamo stabilito oggi, è il titolo in cui questi volumi agili uscivano. E tra l'altro mi fa anche riflettere che il primo volume fosse proprio il libro di Aldo Pantozzi, il secondo era una biografia di Don Narciso Sordo, un altro personaggio che intreccia moltissimo i destini del Trentino con la vita della città di Bolzano, insomma dal momento che è stato parroco, credo, alle semirurali. E, bene, comunque in questa prefazione Pirelli dice che la necessità di testimoniare, di scrivere è urgente e necessaria, non tanto per raccontare ciò che si era fatto, il riferimento ovviamente è alla legittimazione, al ricordo del contributo di molti antifascisti e antinazisti alla liberazione, ma ciò che si era sofferto. E dunque la tipologia di queste testimonianze non è tanto una tipologia che serve a documentare quel periodo che si era chiuso e quindi anche la coscienza, potremmo dire, politica che quel periodo, quelle battaglie doveva alimentare, ma quanto l'elemento appunto della sofferenza. È una memoria che si lega moltissimo alla sofferenza, sofferenza da trasmettere, da trascrivere. Da trascrivere. Russek, che è l'autore di un volume anch'esso di memorie, L'universo concentrazionario, che è stato pubblicato proprio nel 1946, quindi lo stesso anno del volume di Aldo, scrive: L'universo concentrazionario si rinchiude su se stesso. Oggi continua a vivere fra noi come un nastro spento carico di cadaveri. Gli uomini normali non sanno che tutto è possibile. Anche se le testimonianze costringono la loro intelligenza ad ammetterlo, il corpo si rifiuta. Questo ovviamente gli uomini normali. Gli internati invece sanno. Il combattente che è stato me per mesi al fronte ha conosciuto la morte, ma gli internati hanno vissuto faccia a faccia con la morte tutte le ore della loro esistenza. Ecco, vi invito a riflettere sul titolo del libro di Aldo Pantozzi, che non è assolutamente un titolo retorico, è Sotto gli occhi della morte. È proprio questo quotidiano confronto che a un certo punto può sembrare in alcuni passaggi anche quasi proprio un accessorio. Ecco, io credo che leggendo questo volume ci si renda conto realmente quale poteva essere la prima elaborazione poi. Perché, ripeto, 8 mesi dopo, dopo aver passato il periodo subito dopo l'internamento, il periodo passato al Lazzaretto, passato in questa fase appunto di forte disorientamento, di recupero delle forze, ebbene si inizia a scrivere, si inizia a riflettere, a provare a organizzare, diciamo, gli elementi della memoria. E leggere e riflettere queste pagine ovviamente ci suggerisce di provare a compiere con la. Almeno con la mente, questo viaggio tra Cavalese, appunto, dove la famiglia di Pantozzi, come ha ben ricordato e ricostruito nel proprio volume Minotauro Argentato Giuseppe Pantozzi, quell'esperienza appunto resistenziale di CLN a Cavalese, dove questi giovani erano impegnati in attività educative, ma erano impegnati proprio a organizzare un comitato di liberazione locale. L'arresto, i 40 giorni appunto passati nel carcere, gli interrogatori durissimi e poi il primo viaggio, che è un viaggio che abbiamo fatto oggi, venendo su appunto col dottor Tajani in autostrada, da Trento a Bolzano, che già presenta però i primi elementi di angoscia. Questo elemento del viaggio è un elemento molto forte. A Bolzano il numero di matricola di Aldo è l'8078. È nel blocco E, che purtroppo è il blocco dei prigionieri politici, credo, che ha pericolosi, e dove praticamente lui, nello scritto, testimonia già questa prima identificazione col triangolo, appunto, rosso dei prigionieri politici, dicendo, ecco, apparteniamo, diciamo, a questa categoria. Si distingue e inizia a elaborare questo racconto, secondo me, straordinario. E poi c'è il viaggio verso Mauthausen. Io velocemente volevo proprio soffermarmi per invitare, ovviamente, perché le presentazioni dei libri servono per invitare la gente a leggere i libri e non a sentirseli raccontare per in toto, a due o tre flash proprio che mi hanno colpito, devo dire che mi hanno colpito a prescindere proprio dal fatto che il museo abbia poi stampato questo volume. Da tutta questa descrizione del viaggio. Ora, il viaggio è un momento dove si perde la cognizione appunto del tempo. E il viaggio da Bolzano a Mauthausen non è un viaggio lungo. Immaginiamoci coloro che sono andati nella Prussia orientale o nella Sassonia di seguito. È un viaggio breve, è un viaggio che però dura 2 o 3 giorni. Aldo arriva il 4 di febbraio nel campo di Mauthausen, e è un viaggio dove incontra per la prima volta in modo terrificante la fame, la sete, ma specialmente la privazione della dignità. E c'è un passo in cui dice: in quel secondo giorno, poi anche l'ultima parte del nostro intestino ci ricordò come poté che anche lei aveva prepotenti necessità, e da quel momento il vagone della morte, della fame e della sete divenne il porcile della morte, della fame e della sete. Ecco, questa scrittura, secondo me, questo modo anche asciutto di una scrittura elaborata, non è una scrittura popolare, quella di Aldo Pantozzi, ma quella di un intellettuale che scrive per testimoniare qualcosa, credo che sia un testo, insomma, un tipo di approccio che può sicuramente essere utilizzato oggi. E poi ci sono tanti passaggi, c'è la descrizione di Mauthausen, della fortezza, c'è questo incontro traumatico con altri prigionieri. A un certo punto Aldo viene destinato al blocco dei prigionieri russi, e lì incontra proprio la lotta per la sopravvivenza, dove inserito a forza, diciamo, in un ripiano, è costretto praticamente a lottare proprio letteralmente per essere ospitato in una tavola dove già conteneva 3 prigionieri tra loro accavallati. Diciamo, quindi dà questa sensazione molto forte. Il 18 febbraio inizia a lavorare, e iniziando a lavorare sembra conquisti, diciamo, una specie di dignità, o una speranza di dignità in più. Probabilmente il lavoro permetteva anche una alimentazione anche diversa, permetteva un minimo di speranza in più. E poi c'è l'ultimo passaggio che volevo citare, dopo chiudo, che è quello che a me personalmente ha colpito di più, e si riferisce proprio a una domenica passata nel campo. Una domenica dove i prigionieri, anche i prigionieri che lavoravano, non lavoravano, e i nostri aguzzini, scrive Aldo, si concedevano uno spazio, uno svago sportivo, giocando a pallone nel campo sportivo, che era adiacente al lager e visibile oltre lo spinato. Annoto questo fatto perché alle partite, dalla strada di accesso al campo sovrastante, che distava dal nostro filo spinato non più di 30 o 40 metri, assisteva alla partita spesso il pubblico. e cioè la popolazione del vicino paese di Mauthausen, composto di giovani e signore, anche con le carrozzelle dei bambini, allo spuntare del primo pallido sole di marzo. E vivo era il tifo per i loro campioni. Uscendo talvolta dai blocchi, noi vedevamo quei pacifici spettatori della partita domenicale e così, oltre lo spinato, essi vedevano quegli scheletri nudi e sentivano il ringhio dei famelici lupi lungo il filo spinato. Eppure mamme, bambini e vecchi passeggiavano al sole, indifferenti e sorridevano beati. Era questa la popolazione che, potendo vedere almeno uno squarcio della nostra tragedia ed avendo un cervello per poterne derivare tutto il resto, rimase impassibile ed inerte spettatrice. Ebbene, ho colto, diciamo, questo passaggio non per criminalizzare ovviamente i civili che vivevano attorno al campo di Mauthausen, ma per testimoniare ulteriormente, diciamo, quanto sia stato difficile scrivere e organizzare, diciamo, i ricordi, tentare di dare una veste, non dico razionale, però raccontabile, a un'esperienza che era un'esperienza indicibile, non raccontabile. Quindi se oggi ci troviamo a tot anni di distanza, in occasione di questo 60° appunto della fine della guerra della liberazione, e possiamo attingere, diciamo, a testimonianze di questo tipo, lo dobbiamo a uomini e intellettuali come Aldo. Grazie.